creare. Allora, queste immagini sono quelle, cioè le immagini che si mettono di traverso, quindi sono quelle che Flusser chiama transapparatiche. Transapparatiche. E, va bene, allora, adesso non pensiate che... Non pensate che tutto quello che trovo su Flusser sia, cioè, sia oro colato per me, che ogni tanto c'è qualche atteggiamento terribilmente umanistico, come in questa frase. Si tratta, dunque, è un compito enorme quello affidato a tali immagini. Non si tratta di fungere da tappabuchi o di surrogare gli apparati, si tratta al contrario di mostrare ciò che c'è di assolutamente peculiare nell'immaginazione umana, di insostituibile e non simulabile. Questa frase mi fa un po' cagare a me e mi ricorda, come dire, i fasti di un umanesimo che credo andrebbe seppellito, visto che siamo nell'epoca dell'umano e non più dell'umano, però, quindi non è che tutto felice è tutto, però insomma, secondo me al di là poi di come lui legge questa idea, però è l'idea di qualcosa che si mette di traverso, c'è, e mi sembra che la sua idea che la fotografia può essere il campo in cui vengono meglio queste robe qua. Allora, in un altro testo intitolato Immagine dei nuovi media, più breve, e del 1989, quindi di 2 anni prima, allora nell'89 ovviamente esisteva già una galassia culturale chiamata digitale, non esisteva internet, non esisteva. Però esistevano già le realtà virtuali e non erano ancora tanto, diciamo, diffuse, ma le realtà virtuali nascono quelle immersive, dico, proprio quelle classiche, col tasto, il guante, eccetera, nascono nel 1985 e hanno una preistoria che data da almeno 10 anni prima, quindi nell'89 già c'era. Però, obiettivamente, non è che lui aveva tante cose. Allora, in questo saggio Immagini dei nuovi media, è qui, no? Dunque, Flusser parte dalla classica situazione della teoria della comunicazione emittente, canale, destinatario. Un'immagine è un messaggio, e poi però mi sembra che fa 3 esempi di messaggi. Uno è quello di Lascaux, uno è quello del quadro, di un quadro di un pittore del Rinascimento o dell'Ottocento, e il terzo sono le immagini che, dice Flusser, arrivano a casa nostra. Flusser insiste spesso sul fatto che una delle caratteristiche della rivoluzione delle immagini con i nuovi media, non con i nuovi media, che diciamo con i nuovi media dell'Ottocento, del Novecento, sono del Novecento, è che cambia, è collegato con la scomparsa del spazio pubblico. Insomma, lo scorso anno, tempo sul concetto di spazio pubblico e sulla elaborazione di Habermas di questo concetto di spazio pubblico. Habermas dimostra nel suo libro sull'opinione pubblica che lo spazio pubblico nasce come trasformazione di uno spazio privato, cioè è lo spazio della corte che all'inizio della modernità si trasforma in uno spazio accessibile al pubblico, eccetera, eccetera. In realtà questo modello di spazio pubblico non nasce con la modernità, perché ci sono degli esempi precedenti, e il più famoso ovviamente è l'agorà ateniese, insomma. Però ovviamente l'agorà ateniese in parte anche il foro sull'arte romano, no? Adesso parlo tanto male sempre di Roma, ma è di Roma antica, rivoluzionari francesi avevano in mente più il modello, diciamo, romano che quello greco. Che quello Thomas Jefferson invece no, negli Stati Uniti Thomas Jefferson era un atenofilo, non so come si può chiamare, ma aveva più presente, diciamo, la corrente, che si potrebbe dire democratica del pensiero politico americano del Settecento, fa più riferimento direttamente al modello greco. Quella qualche decennio più tardi i rivoluzionari francesi invece hanno la, diciamo, retorica di Roma che, comunque questo. Allora, una delle cose, vi devo dire, perché però non si contestualizza questa cosa. Uno dei cambiamenti che dice, come dice appunto Flusser, è la scomparsa dello spazio pubblico. Allora, lo spazio pubblico è una cosa non esclusiva, ma tipica della, come dire, modernità, in cui Flusser fa spesso questo esempio, dice la dialettica tra pubblico e, diciamo, privato nel classico modello moderno della modernità è: le immagini vengono elaborate privatamente a casa sua da un autore o da un editore, da un pubblicatore. Questi poi però le deve portare in uno spazio pubblico per renderle disponibili agli altri. Spazio pubblico vuol dire che deve mandare dei giornali in edicola o deve costruirsi una emittente televisiva o una emittente radiofonica. Il cittadino normale, medio, deve a sua volta andare nello spazio pubblico per acquisire queste informazioni o questi elementi di, diciamo, dibattito, dopodiché torna nel suo spazio privato, a casa sua o con i suoi amici, che cazzo sia, e lì le può rielaborare. Secondo Flusser, la televisione altera, cambia totalmente questo, come dire, modello, perché con la televisione non siamo più noi che dobbiamo andare in cerca delle immagini, quindi delle informazioni anche nello spazio pubblico, ma è lo strumento di comunicazione che ce le porta direttamente a casa nostra. Il modello push che si è affermato in internet in modo totalmente contrario alla prima filosofia di internet, è uno degli esempi della pressione ancora forte della televisione anche sui nuovi media, insomma, perché gli RSS sono un po' una sorta di modello televisivo, insomma, o, guarda, mi arrivano lì, mi dice guarda, c'è qua, sì, posso scegliere, diciamo, canale, però è la cosa che arriva a me. Nel primo internet una delle cose belle era girare da soli, ovviamente sbagliando, cascando per terra, cercando il fosso come, diciamo, tra le guardare le stelle, quindi sempre irrisida, miriadi di servizi tracce. Vabbè, insomma, quelle erano le, ma è solo questa una stagione. Però il dato inconfutabile è che la tarda modernità o la postmodernità, insomma, questi anni che stiamo vivendo, da una ventina, diciamo, d'anni a questa parte, segnano indubbiamente un tramonto dello spazio pubblico. Lo spazio pubblico non ha più, cioè, pensate a una città come Los Angeles, che è uno dei modelli, o per certi versi anche alle nuove, a società più antiche, ma che sono cresciute veramente nell'ultimo periodo, come Città del Messico o Nuova Delhi, o anche Bombay in parte, non so dire di Pechino, ma insomma ci sono posti in cui ancora il vecchio modello dello spazio anche fisico, perché quando poi il spazio fisico è un concetto più vasto, la città ha la sua corrispondenza anche con, diciamo, il futuro. Effettivamente lo spazio pubblico oggi deperisce perché non ha più funzione, perché è vero, insomma, perché ormai ognuno di noi non deve più andare fuori casa per acquisire le informazioni, lo fa tranquillamente a casa sua, insomma. Una delle ragioni per le quali anche l'acquisto dei quotidiani in Italia cartacei non è mai decollato, o comunque è sempre stato, non è che è stato all'inizio, certo, è sempre stato basso anche come prima, però voglio dire, nonostante, non, comunque non decolla, perché comunque è vero, perché il, diciamo, giornale è uno dei tipici strumenti da, diciamo, spazio pubblico, si sta trasformando in lui, ovvio, perché stanno diventando tutti delle cose, insomma. Va bene, allora, dice Flusser. Per poter amministrare una società complessa come la società post-industriale, che io sto chiamando adesso società Tarda-Moderna, insomma, è la stessa roba, società post-industriale lo guardo sempre più anch'io, poi ogni tanto il capisco mi scoccio di troppo, faccio un po' casino, terminologicamente. Per poter amministrare una società complessa come la società post-industriale si deve poter prevedere il suo comportamento, si deve poter prevedere il suo comportamento. Il metodo appropriato è prescrivere dei modelli di comportamento. Le immagini, come si è visto nella situazione delle caverne, sono buoni modelli di comportamento. Già la pittura di Lascaux è un modello di comportamento. Ti dice per cacciare il toro bene devi fare così e così, o devi fare delle robe. E c'è anche un riferimento forse extratestuale, diciamo. Sono figurativo, magari non è detto che un'immagine sia in ambito testuale, ma qui si parla di un testo, perché è sbagliato, ho detto fatto di un semiotico, perché purtroppo per me sono nato quando sono nato. E quindi, sì, c'è un senso, però insomma già in qualche maniera l'immagine mostra, quasi sempre le immagini prescrivono modelli di comportamento, secondo tu, mi sembra un'osservazione abbastanza realistica. Esse, le immagini, hanno il vantaggio supplementare di funzionare anche come modelli di vissuto o di conoscenza. L'autorità amministrativa, leggi, versi politici, insomma, impiega dunque un certo numero di specialisti affinché producano simili immagini. A questi specialisti ne vengono affiancati altri che trasportano le immagini nella società oppure misurano il grado di efficacia delle immagini, eccetera, eccetera. Questi specialisti non sono le vere e proprie emittenti, bensì i funzionari della trasmissione. Allora, però, finita questa roba, dice, ad un'osservazione più ravvicinata delle situazioni raffrontate tra loro, la pittura murale di Lascaux, il quadro poi le nuove immagini elettroniche o anche digitali, a una situazione più ravvicinata delle situazioni raffrontate da loro, sorge il disappunto di aver parlato in tutti e tre i casi di immagine, mentre in ogni specifica situazione la parola ha un significato del tutto diverso. Nel primo caso, Lascaux significa una rivelazione ottenuta per distanziamento dal mondo della vita. Una rivelazione ottenuta per distanziamento dal mondo della vita. La pittura di Lascaux non è la caccia al bisonte, è una schematizzazione, un'organizzazione e probabilmente si collega al di fuori della superficie della caverna con comportamenti rituali, eccetera, eccetera. In tutti i casi però quel tipo di immagine istituisce una distanza. Io la posso guardare perché questa, diciamo, immagine mi ricorda una situazione, ma non è la, diciamo, situazione, non è, quindi è un modello in qualche modo, una rivelazione ottenuta per distanziamento dal mondo della vita. Nel secondo caso, la tela dipinta, il quadro dipinto dal pittore, immagine significa un contributo privato alla storia pubblica. Privato, perché il pittore l'ha fatto a casa sua, ma ma è un contributo alla storia pubblica, perché è un quadro destinato ad essere visto. I quadri, oggi i quadri stanno in gran parte nelle case private o nei musei, nelle case private dei collezionisti ricchi, ma su Anche questa è una credo. roba che nasce con la, cioè, insomma, ci vuole un bel po'. Fino all'inizio della modernità i quadri stanno quasi tutti in posti pubblici, in Anche palazzi pubblici, in tanti chiese. quadri di Michelangelo erano in case private. Ma sì, ma non, ma Tanti lavori era, del cioè, Cinquecento ne erano sono nel stati privato. commissionati però. Comincia nel, Da come dire, questo momento, 500, certo, comincia. sì, ma poi dopo va avanti, adesso non ce n'è più di quadri, i quadri saranno nei, cioè, musei o nelle. Beh, vabbè, sono stato l'altro giorno a Napoli, vabbè, ci sono un sacco dentro, ho messo un sacco di opere d'arte nella metropolitana, hanno copiato Roma, ma hanno surpassato la quantità, cioè una roba indescrivibile, sono un sacco di opere, sono veramente dei piccoli musei. Comunque, allora, nel secondo caso, il quadro, l'immagine è un contributo privato alla storia pubblica, che esige di essere rielaborato da altri. Lo spettatore del quadro rielabora privatamente, in qualche modo, un qualcosa visto in uno spazio pubblico, e, come dire, si sente attraverso il quadro, come attraverso la inquadratura del libro, una parte del flusso storico della storia, il processo di storia, come lo intendiamo noi, è tipico della modernità. Non c'è storia né nell'antichità classica né nel Medioevo, nel senso in cui la intendiamo noi, né Tucidide forse potrebbe essere considerato come l'unica anticipazione di un modello storico, però dopo sicuramente no. Le sue cronache. Nel terzo caso, cioè le immagini televisive, eccetera, l'immagine è un metodo per programmare il comportamento dei funzionari della società post-industriale. Ma in tutti e tre i casi è inevitabile parlare di immagine, e non solo perché nel significato attuale, post-storico, cioè nostro, di immagine trapela il significato preistorico e storico. Noi siamo in un'epoca post-storica, dice, le condizioni della storia stanno, come dire, finendo, perché finisce lo spazio pubblico, finisce la relazione e la possibilità di distanza tra l'immaginario e, diciamo, reale che aveva garantito la storia, e quindi oggi siamo in una post-storia. La storia o ricomincia costantemente da capo, non ha più senso fare la storia del presente, forse non ci sarà, e certamente poi ci sono, la rischiosità delle tradizioni culturali, una materia che la storia continuerà sicuramente per parecchi decenni a essere insegnata nelle scuole secondarie, ma fatto sta che per le nuove generazioni, insomma, quindi suppongo, mi sa anche per voi, insomma, già in buona parte la storia ha uno scarso significato, insomma. Al di là delle vostre, come dire, dei vostri desiderata, ma di fatto, obiettivamente, insomma, non vivete, non viviamo neanche noi, insomma, certo. Quindi è una cosa di cui mi rendo conto anch'io, anche se ovviamente io è molto più difficile per me staccarmi dalla storia, anche se però, essendo, come forse vi ho già detto, una delle frasi che preferisco è quella di, che Joyce fa dire a Stephen Dedalus, la storia è un incubo da cui cerco di svegliarmi, che l'avevo già letta quando ero piccolino, quindi la storia c'era in pieno. Allora, ma in tutti e tre i casi è inevitabile parlare di immagine, e non solo perché nel significato attuale, post-storico, di immagine trapela il significato preistorico e storico. Le immagini balenanti sullo schermo racchiudono in sé resti della sacralità preistorica e dell'impegno storico, e certo tanto nel senso politico quanto nel senso estetico del termine. Proprio questo rende così difficile la valutazione della situazione. Dopo queste considerazioni, Flusser passa ad esaminare la questione del trasporto delle immagini e dice, probabilmente la questione fondamentale, quella più importante per il. Mi posso sedere? Mi prendo lo stesso? Mi riesco a abbassare. il fattore che fa la differenza, come si dice, che determina il carattere di un sistema di immagini, per esempio tecniche, è meno il fattore produttivo o l'intenzionalità autoriale, quanto le modalità e le condizioni del trasporto. Una delle caratteristiche principali dell'immagine televisiva è il modo in cui viene trasportata. È un'immagine che arriva a casa nostra da centri lontani e inaccessibili, se possiamo sapere, che, però non siamo neanche sicuri che Mediaset trasmetta dal territorio monzese, che ne sappiamo, cioè chi non è dentro a quel mondo non sa a volte neanche fisicamente da dove viene il segnale televisivo, e comunque sia da dove venga viene ripetuto tante di quelle volte che non ha più senso. Allora, le immagini arrivano a casa nostra da, diciamo, centri, come dire, lontani, e non prevedono queste immagini una capacità di risposta nostra. Noi non possiamo rimandare indietro delle immagini al televisore che ce le ha mandate, alla emittente televisiva che ce le ha mandate. Varie volte Flusser, mostrando con ciò una consonanza con parte che stava nascendo in quegli anni, una consonanza non dichiarata ma oggettiva con i movimenti di democratizzazione dell'informazione o con i movimenti di autoproduzione dell'informazione legati, che sono per esempio negli ultimi anni, sono legati ai movimenti no global, e lui spesso dice cose simili, le diceva magari anche alcuni decenni prima. E lui dice: c'è la tendenza ad identificare la ricezione delle immagini che compaiono sugli schermi con la ricezione delle immagini delle caverne, come se le nuove immagini ci ricacciassero in una condizione preistorica, perché è acritica, e come se per questo esse fossero politizzanti. Questa è una critica che alcuni critici tradizionalisti della televisione gli fanno, per esempio Karl Popper, come tutti sapete. Però c'è anche un'altra tendenza invece a scambiare le immagini televisive con dei quadri in esposizione. Ognuna di queste tendenze conduce a una valutazione diversa della situazione. La prima a una valutazione pessimistica, la seconda ad una ottimistica. Sono entrambe sbagliate. Noi dobbiamo cercare di valutare la situazione attuale in base alle sue caratteristiche specifiche, anche se nel fare questo non dovremmo perdere d'occhio i precedenti significati di immagine, la scope e il quadro. Allora forse possiamo prevenire al giudizio seguente: così come sono trasportate attualmente, vedete che usa come criterio il trasporto, così come sono trasportate attualmente, le immagini devono assolvere esattamente alla funzione descritta in precedenza di programmi di comportamento. Devono trasformare i loro destinatari in oggetti, e questa è anche l'intenzione sottesa a questo genere di trasporto: trasformarci in persone che eseguono dei programmi di comportamento predefiniti. Ma l'attuale metodo di trasporto non corrisponde necessariamente alla tecnologia dei nuovi media, bensì proprio solo all'intenzione da essi sottesa. I media potrebbero altrettanto bene, o forse addirittura in modo anche più efficace, essere distribuiti altrimenti, non come fasci monodirezionali che connettono un emittente a innumerevoli destinatari, bensì come reti che connettono gli uni con gli altri singoli mediante cavi reversibili, dunque non sul tipo della televisione ma sul tipo della rete. Tutte ste robe le aveva già embrionalmente dette McLuhan, e le dicono oggi con più forza e con più gran cassa di Flusser i McLuhaniani, nel novero dei quali in qualche maniera non posso togliermi manco io, insomma, perché obiettivamente. Però mi sembra che il modo in cui lui espone questa cosa è insegnanti, non so. Non esiste nessuna necessità tecnologica in base alla quale le immagini siano irradiate monodirezionalmente, esse possono anche essere inviate e ricevute quando è circolare. La situazione attuale dell'immagine deve perciò essere considerata solo come una possibilità tecnologica tra le altre. L'intenzione sottesa al trasporto delle immagini, così come avviene oggi, è certo molto potente, ma non insuperabile. Speriamo che avete ragione, forse. È molto potente, ma non è insuperabile. Dopo il discorso di italiano. Ovunque emergono dei tentativi di commutazione del trasporto delle immagini, in particolare nell'ambito delle immagini computerizzate. Qui possiamo osservare come immagini siano inviate da un mittente a un destinatario per essere rielaborate e ritrasmesse. Questi tentativi di operare una commutazione mostrano che è tecnicamente possibile aggirare l'intenzione sottesa all'attuale modalità di collegamento. Questi tentativi mostrano che tecnicamente è possibile mettere fuori gioco il potere politico, economico e sociale. Va bene, no, ok. Ci hanno criticato per anni le persone di buon senso dicendoci che dico la bifora messa, no? Tanta gente, cioè, dicendoci che eravamo degli ottimisti tecnologici, forse non ha niente a che fare con noi, con la nostra storia, con la nostra cosa. Se questa trasformazione riuscisse, il concetto di immagine acquisterebbe un nuovo significato rispetto ai tre indicati in precedenza. Si tratterebbe allora di una superficie incorporea su cui potrebbero essere progettati dei significati mediante la cooperazione di molti partecipanti interessati. Intelligenza collettiva, direi. O quella collettiva. Si tratterebbe allora di una superficie incorporea su cui potrebbero essere progettati dei significati mediante la cooperazione di molti partecipanti interessati. Quanto è detto è significativo non solo per le immagini, bensì per l'esistenza futura in generale. I nuovi media, così come attualmente sono trasmessi, trasformano le immagini in modelli di comportamento, gli uomini in oggetti, ma potrebbero anche essere distribuiti secondo diverse modalità di collegamento e trasformare le immagini in vettori di significato, gli uomini in cooperanti progettatori. Se ci fosse il web 2.0. Adesso, il web 2.0, se volete, possiamo discutere, non mi pare che il web 2.0 sia esattamente la... Proprio riproduce sempre modelli di comportamento, comunque. Certo. Cioè, propone dei modelli di comportamenti che l'utente deve seguire. Cioè, quindi vuol dire... cioè, questo è allora... Queste robe lui le scriveva nell'89, quindi prima di aver visto internet, probabilmente c'era già internet, insomma, ma... Non era una roba per pochi scienziati, nell'89 ancora non sono, sono gli anni in cui sta facendo. Però la contrapposizione della logica di rete alla logica tradizionale mi pare abbastanza chiara e convergente con altri punti di vista espressi nel mondo da correnti di pensiero diverse, ma che a questo punto si trovano diciamo, d'accordo. Allora, sospendo per un attimo Flusser, poi ci sarebbero un sacco di altre cose da insomma, dire, da... No, perché... Una domanda. Dimmi. Ma nel caso della televisione, che per esempio, diciamo, la maggior parte delle cose che propone, diciamo, la maggior parte della TV è fatta da pubblicità, buona parte della TV, cioè è utilizzata per pubblicizzare il prodotto in qualche modo. Cioè, in quel caso lì cos'è che crea il comportamento? È il prodotto che crea un comportamento, una coscienza politica, o è la coscienza politica che crea il prodotto? È il brand. Cioè? Non è più il prodotto, è il brand. Quando tu vai a comprare le merendine del Mulino Bianco non compri più un prodotto, aderisci inconsapevolmente, più o meno inconsapevolmente, a una sorta di modello che è quello della pubblicità del Mulino Bianco, che non vuol dire il cazzo che siamo migliori di altri, è lo stile di vita, è lo stile di vita, o meglio, è il risarcimento immaginario e fantasmatico di uno stile di vita. Nessuno di noi vive vicino, per fortuna, dico io, ma insomma, se anche voi a una ruota di mulino con i bei campi verdi e ci abbiamo tutte bambine così rompi coglioni come quella della pasta di tanti anni fa, non vedo più la televisione, i miei riferimenti sono vecchi di almeno 10 anni, 15 anni, ma vedo che erano. Ok, nessuno di noi vive davvero così, ma abbiamo una produzione immaginaria e fantasmatica in testa che aspiriamo a quello, diciamo, ma quando posso però vado via dalla città, ho la casa in campagna, ho la casa via, cioè, o se non ho la casa, quindi è in questo senso. Sì, ma è quello senso, che chiedevo, una volta che creano comportamenti, ok, questi brand, sono loro a scegliere poi l'ideologia politica, se ci riformiamo continuamente dalla TV e da quello che vediamo. Angela, il problema è che a questo punto, in situazione del genere, l'ideologia politica è un lusso, un surplus di cui possiamo anche fare a meno. E cui chi lo opta poi il controllo sul mezzo stesso? Tendenzialmente l'economia post-industriale tende a regolarsi sempre più diffusamente, autonomamente, tende a inglobare dentro la propria sfera funzioni tradizionalmente politiche. I governi, cioè le amministrazioni politiche regolarmente elette in tutti i paesi del mondo, contano sempre meno. Hanno sempre meno peso, perché sempre più fattori della nostra vita quotidiana e delle scienze sono ormai decisi, regolati in ambiti internazionali non democratici o comunque non, diciamo, elettivi, non controllati neppure da nessuno, che sono poi sono tre fondamentalmente, cioè la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'Organizzazione Mondiale del Commercio. L'insieme delle decisioni di questi tre organi ha sulle condizioni di vita di tutti i paesi del mondo, se non un'influenza maggiore, un'influenza almeno pari a quella delle scienze dei singoli nazionali. Bene che ci vada, i governi, e io credo che sia una posizione troppo ottimistica, governi nazionali o transnazionali, nel caso tendenziale dell'Europa, eccetera, decidono a sì e no del 50% delle nostre cose. Il ragazzo del 90% è sottratto anche a quella parvenza di che è solo una parvenza, pensate voi in Inghilterra quale grande distanza c'è tra Tony Blair e i conservatori, o pensate qua in Italia quanta poca differenza c'è tra il Partito Democratico di Berlusconi, insomma, tendenzialmente. Sì. Ma sarebbe un nuovo ordine mondiale? Allora, il nuovo ordine mondiale temo che sia una roba con cui alcuni di quei politici si baloccano e che alle multinazionali non gliene frega molto del nuovo ordine mondiale, perché se lo fanno da loro, per conto loro, insomma, hanno gli strumenti. Le grandi aziende multinazionali hanno sempre più strumenti di intervento direttamente politico o direttamente tramite le loro cose, per tutto il cataclisma dell'America Latina di questi ultimi 15 anni è semplicemente il fatto che alcuni paesi hanno deciso, ed era ora, dico io, di sfidare questo scandaloso e veramente nauseabondo strapotere quattro compagnie petrolifere, di due o tre compagnie della alimentazione, di grandi scuri, Monsanto, eccetera, su tutte le economie latinoamericane. Insomma, quando qualcuno già lì è andato a qualcuno, dice ma non c'hanno stile, ma tale, per cui saranno pure, non saranno stile, ma insomma, io anch'io. L'unico scopo, cioè, l'unico di un governo rimasto, lui è quello di Uribe in Colombia, insomma quasi l'unico ormai che è rimasto saldo nel fatto. Quindi la politica, Angela, sì, non è che non conta più, perché c'è sempre un però intanto è sempre più ideologica. Nel periodo della tanto strombazzata fine delle ideologie, le anti-ideologie che dovrebbero avere sostituito le ideologie tradizionali, si dimostrano 100.000 volte peggiori di quelle precedenti. Cioè, il neoliberismo è una ideologia peggio argomentata e più nefasta, voglio dire, insomma, il marxismo perlomeno non è stato mai veramente al potere da nessuna parte, ma una caricatura di marxismo è stata al potere in Unione Sovietica, quella in Cina non so se sia mai tutto, diciamo anche in Cina, insomma, in qualche maniera lo è anche adesso, con una, insomma, il neoliberismo impera in tutto, diciamo, il mondo. E la sua natura assolutamente ideologica è dimostrata dal fatto che richiede l'adesione a certi comportamenti per massimizzare certe particolari categorie economiche che sono poi sostanzialmente i dividendi delle, diciamo, aziende, quindi anche all'interno dell'economia c'è una dittatura dell'economia sulla società. C'è una dittatura della finanza sul resto dell'economia, perché non ne frega più un cazzo a nessuno di quali beni producono le robe. Ci sono aziende in attivo che vanno benissimo, che devono licenziare perché il dividendo dell'anno prima è stato giudicato dagli azionisti e dai loro rappresentanti poco di terminativo, no, bisogna avere 10, no, dobbiamo avere 12, prima di avere 12 bisogna far fuori 20.000 persone, siamo fuori 20.000 persone, che ci frega noi di qua quanta gente lavora, di quali prodotti si producono, poi un cazzo, basta dal più al meno continuare a vendere delle cose e poi garantire il dividendo allo shareholder. Questa roba qui non succedeva neanche neanche nei periodi peggiori del capitalismo più rapace e più selvaggio americano del 800, cazzo, succede oggi. Ed è ora che abbiamo ucciso le ideologie. Mi chiedo, quella di Milton Friedman, che cos'è se non una ideologia? Ha vinto un Nobel, ma si sa cosa sono i Nobel, l'ha dato anche a Larry Fox, che se lo posso dire, l'hanno dato oggi, no, non ce ne sono altri che sono più scandalosi, ma insomma, vuol dire. Va bene, allora, l'ultima cosa, però l'ultima, sto cercando di aprire. Allora, Schlusser, come spero di avervi suggerito, in realtà non è poi tanto pessimista. In realtà Schlusser suggerisce in qualche modo che lui forse semplifica un po', perché dice, vabbè, però semplifica nei passi che vi ho letto io, poi ce n'è altri un po' più complicati, però erano quelli anche più. Comunque, suggerisce che in qualche maniera un mix tra nuovi mezzi di trasporto, nuove modalità di trasporto delle immagini, la scelta di un modello reticolare invece di un modello di emissione mono, diciamo, direzionale, potrebbe. Allora, mi sono chiesto anche sullo scorso di altre cose, perché me lo hanno suggerito anche altri, non voglio prendere dei meriti che non ho. Insomma, come si dice? Il Novecento è stato, nel Novecento si sono svolti importanti dibattiti, grossi dibattiti sullo statuto dell'immagine e sul suo, e magari le volte prossime sarebbe bene prenderne almeno in esame qualcuno, partendo almeno da Husserl e dalla fenomenologia, volendo anche la versione heideggeriana, ahimè, della fenomenologia, preferirei fermarmi a chiari, penso, va bene. E sullo, che sono ovviamente dibattiti sullo statuto dell'immagine che sono collegati con le grandi trasformazioni avvenute nei campi dell'arte, ma soprattutto nei campi nel campo della fine, cioè che vanno collegate con le costellazioni tecniche di cui ho fatto cenno nelle primissime lezioni, ma che ripeto non affronterò in maniera esplicita nel corso, preferendo perversamente intrattenermi più su diciamo, questioni di tipo concettuale. Allora, detto questo, cioè, e allora mi è venuto in mente, ho semplicemente cercato di capire dove, con cosa fosse collegata questa intuizione di Benjamin per il composto, che come poi spiegherò in qualche lezione successiva, a me pare possa essere oggi un buon punto di partenza per tentare di generalizzare questa intuizione beniaminiana e più o meno con una logica simile, anche se penso ci debbano essere moltissime cautele, e diciamo trasferirla, ampliarla ad una nozione più generale di inconscio digitale. Di questo parleremo in qualche lezione successiva, però tutto questo corso, come diciamo, avete capito, è molto provvisorio, perché sono le cose che sto insomma, elaborando io in questo periodo, quindi diciamo, nessuno è a posto, mai neanche sfocato non è a posto proprio. Quindi in qualche maniera qualcuno di voi potrebbe lamentarsi di essere usato come cavia per una serie di teorie cervellotiche di Carolina, ma potrebbe anche essere giustificato. Va bene, e allora sto andando a diciamo, cercare questa. Altri caratteri, altri tratti di queste cose di Benjamin, mi è parso intanto che questa idea sia dell'inconscio ottico nella versione che vi ho letto la volta scorsa, sia di altre cose analoghe che dice soprattutto nelle 18 tesi di filosofia della storia, sia fortemente collegata con il tema del tempo. Anche solo il fatto dell'esempio che è costretto a fare per dire la fotografia rivela un inconscio ottico, o che altri sono, o quello che ho fatto io di Maybridge, ma che è, diciamo, va in quel campo lì e in quel senso lì, potrebbe far pensare che c'è un carattere dell'immagine che potrebbe essere simile a quello che dice Flusser delle immagini che si mettono lì, diciamo, attraverso, perlomeno alcune di queste immagini funzionano così quando in qualche maniera interrompono il flusso del tempo normale, o perché fanno il vuoto, fanno un vuoto di tempo anche per un solo istante, o al contrario perché fanno un pieno di tempo. Nelle tesi della filosofia della storia, Benjamin parla di un concetto, usa una strana parola che tutti hanno difficoltà a tradurre, che è lo Jetzeit. Ma ci fosse mai un cazzo di Jeff. Yes, J-E-T-Z, perché lo state dentro, che vuol dire adesso, ora, Zeit, Z-E-I-T, che vuol dire tempo. Yes, Zeit. Non mi ricordo più se lo scrive con il trattino o insomma senza. Lo Yes, Zeit è collegato da Benjamin al tema della rivoluzione. Benjamin vede la rivoluzione, come penso tutti sappiate, dalla famosa immagine dell'Angelus Novus, cioè l'angelo di Klee con il vento che lo spinge verso il futuro, ma lo sguardo rivolto al passato, in particolare Benjamin dice, perché è un figlio di cultura ebraica, messianica, eccetera, ma proprio per questo dice che la rivoluzione non si fa guardando al futuro, come dicevano tutti i positivisti e anche la volgata marxista, ma al contrario guardando al passato, perché la rivoluzione banalizza un po', ma insomma l'idea delle materie è questa. Adesso per rivoluzione non inchiodatemi, non voglio dire che bisogna fare una rivoluzione politica, insomma, dico in qualche maniera qualsiasi processo di rinnovamento piuttosto rapido possiamo continuare a chiamarlo rivoluzione, anche se fino a che non ci saranno tribunali speciali che preferiscono usare questa parola, non vedo che non la si possa usare. Quindi diciamo, in parte dice questo Benjamin perché una rivoluzione è sempre un risarcimento delle vittime della storia del passato, insomma, cioè di quelli che non ce l'hanno fatta prima di noi, no? Allora noi diciamo, retorica ci dice che facciamo una rivoluzione o facciamo qualcosa perché pensiamo ai nostri figli, eccetera, soltanto abbiamo la rivoluzione perché siamo stufi noi, perché e siamo stufi noi è quel tot di passato che ci sta sulle spalle, che portiamo tutti noi normalmente, voi ne portate un po' più di me, un po' più di voi. No, una buona prima. Va bene, insomma, comunque, e da questo punto di vista questa, allora, dice bene, no, cosa ci sarebbe. Però c'è un pezzo di Parigi capitale del XX secolo, che è esattamente il frammento M31, nel quale Benjamin elabora, un concetto che poi viene, c'ero Jespul qua, che poi viene sempre commentato molto, che è quello della immagine dialettica. E allora, non lo so, ovviamente, la mia ipotesi è che ci possa essere un ponte tra le immagini dialettiche di Benjamin e le immagini che si mettono di traverso di Fuchs, e forse tante altre cose ancora, ma insomma in questa fase sono le cose che ho. E che, siccome mi pare che una delle questioni che le tecnologie digitali non hanno aperto, ma lasciano aperte fondamentalmente oggi, sia tra le due grandi categorie kantiane, più quella del tempo che non quella dello spazio, perché lo spazio qua dentro ormai è abbastanza organizzato, insomma il ciberspazio la dico in modo proprio brutale, banale, riduttivo, ma insomma il ciberspazio lo ha già, è già del capitalismo, non so fare più nulla, noi nel ciberspazio in quanto tale, abbiamo già perso su quel, cioè chiunque abbia una ipotesi di superamento o di correzione sostanziale del capitalismo, lo spazio ha perso, lo spazio è ormai saldamente colonizzato da chi deve essere colonizzato. I giochi credo che siano invece ancora aperti fondamentalmente. È ovvio che non si può distinguere tempo e spazio in modo così, diciamo, radicale. Quindi il fatto che sia il cibertempo, che sia oggi il terreno di scontro più forte, il terreno di battaglia più forte, non vuol dire che questo non abbia effetti anche sul cyberspazio, è ovvio. Però diciamo, guardare le cose dal punto di vista spaziale o di una metafora spaziale, anche perché sarà una cosa banale, insomma, ma su internet lo spazio è una metafora, è un riferimento a, insomma, si dice ciberspazio, per va benissimo, sono contento per Gibson che si è fatto la sua fortuna, però non è propriamente uno spazio, mentre il tempo non è affatto una metafora. Anche il tempo reale, perché va bene, è temporale, ma non è una metafora, sono al limite possono essere diverse, cioè mentre il ciberspazio è chiaramente identificabile come una rappresentazione o comunque come, come un tempo falso, insomma, come uno spazio falso, è uno spazio fake il teatro, lo sappiamo tutti, cazzo, non possiamo, cioè, come dire, Second Life in testa, cioè, è più falso di così. Il tempo no, ci saranno dei tempi diversi, certo, ci sono degli scontri ontologici sul tempo, dentro al computer, dentro all'internet, ma sono scontri su tempi entrambi, diciamo, reali, oltre che, cioè, tempo reale nel senso del computer. Cioè, certo, ha introdotto dei cambiamenti, ma il tempo è... E poi il tempo, se devo essere sincero, da un punto di vista ontologico, mi spiace, so che dico una cosa che può essere tacciata di idealismo, ma mi pare ontologicamente più fondante dello spazio. Allora, detto questo, vi congedo con questa breve paginetta. Come, non ce li ho, cazzo? Dunque, con questa paginetta di Walter Benjamin, scritta intorno al 1840 e siglata N maiuscolo 3,1, secondo il sistema di scartafacci di questo voluminoso manoscritto, dattilo scritto, che si è aperto, è stato ritrovato fortunatamente 10 o 15 anni dopo, cioè quando lui è morto, quando si è suicidato, si erano perse tutte le robe sue, quindi si disperava di poterlo trovare, ovviamente alcuni amici sapevano che stava lavorando a questa grande opera e poi l'hanno trovato, forse addirittura nel... Allora, ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Non ho bisogno di ricordarvi che Benjamin fa una battaglia anti-essenzialista, come credo io abbia senso di fare, contro le essenze immutabili degli oggetti. Cioè, tutti gli oggetti sono storici. Quindi ciò che distingue le immagini dalle essenze della fenomenologia è il loro indice storico. Heidegger cerca invano di salvare la storia per la fenomenologia in modo astratto attraverso la storicità. Il concetto di storicità è uno dei più bisogni e valori di Heidegger. Come già vedete qui, però, Benjamin comincia con una critica anche della fenomenologia, quindi anche di Husserl, nella misura in cui vede nella fenomenologia una, diciamo, corrente comunque ancora essenzialista, cioè che si propone di indagare l'essenza di certe cose, della mente umana, dell'animo umano. Queste immagini devono essere assolutamente distinte dalle categorie della scienza dello spirito, il cosiddetto habitus, lo stile, eccetera. L'indice storico delle immagini dice infatti non solo che esse appartengono ad un'epoca determinata, ma soprattutto che esse giungono a leggibilità solo in un'epoca determinata. Chiaro? Non solo le immagini nascono con la storia e quindi hanno una data di nascita, banalmente, e sono partecipi, ma sono più complesse. Dice, per questo dice che devono essere distinte dalle categorie della scienza dello spirito, l'habitus, lo stile. Quelli sì che sono legati. L'habitus è Lord Brummel, veste in maniera riconoscibile ai suoi tempi. Oggi noi se io mi vesto con Lord Brummel, siete tutti autorizzati a scopisciarvi da ridere. Cioè, no? Sì, chiaro, no? che dice quelle non sono immagini, dice Benjamin, occhio, quello è l'habitus, lo stile, la moda, vuol dire in qualche maniera, anche se poi lui per moda intera. E perché dice? Perché le immagini, l'indice storico delle immagini non dice solo che esse appartengono ad un'epoca, ma che soprattutto che esse giungono alle civiltà in un'epoca determinata. Cioè, ci può essere uno scarto tra il momento in cui un'immagine appare e il momento in cui sono maturi i tempi per una lettura di questa immagine. Se pensate all'Angelus Novus, che è la più famosa delle immagini di Benjamin, Benjamin ha fatto esattamente un lavoro del genere, ha preso un quadro di Klee dipinto 15 anni prima, 20 anni prima, e lo ha letto in un modo che probabilmente nel momento in cui Klee lo aveva prodotto non era, ecco, no, adesso, però ha dato questa dimostrazione con 10 anni. Poi ci possono essere 10 anni, un secolo, quello che sia, diciamo, di tanto. Dice, quindi occhio, dice, c'è una leggibilità delle immagini. Attenzione, e precisamente questo giungere a leggibilità è un determinato punto critico del loro intimo movimento, del loro, chissà com'è in tedesco qua, del loro intimo movimento. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni presente è determinato da quelle immagini che gli sono sincrone. Ogni ora, yes, è l'ora, yes, di una determinata conoscibilità. La concretezza storica e, diciamo, pure il, diciamo, relativismo storico, ma non storicistico, di Benjamin è talmente forte che addirittura non solo sono le immagini che giungono a maturazione, possono essere lette e comprese, ma le conoscibilità sono determinate. Si conosce in modo diverso in uno yet rispetto che ad un altro yet, e sono i modi di conoscenza che sono diversi. I climi culturali che cambiano danno delle modalità di conoscenza, la conoscibilità è, diciamo, diversa. E qui viene la frase che mi fa sognare. In quest'ora, ha detto prima, ogni ora è l'ora di una determinata conoscibilità. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. In quest'ora la verità è carica di tempo sino a frantumarsi. Parentesi. E questo frantumarsi e nient'altro è la morte dell'intenzio, che coincide con la nascita dell'autentico tempo storico, il tempo della verità. Ovviamente questo è tutto anti-Heidegger, il concetto di verità di Benjamin è totalmente anti-heideggeriano, non è transtemporale, eterno, no, è la verità per Benjamin è esattamente un processo storico. E che coincide con, cioè, e questo frantumarsi e nient'altro è la morte dell'intenzio. La storia, dice Benjamin, nasce quando le intenzioni di chi compie gli atti e gli esiti sono finalmente tradite. Viva Dio, certo, potreste accusare in questo caso Benjamin di avere semplicemente, diciamo, echeggiato le astuzie delle, diciamo, ragioni e le eterogenesi dei fini di Hegel. Ma occhio, qui non c'è Hegel, perché non c'è nessuna pretesa di imporre leggi generali di funzionamento, no. È una, come dire, per diversi, al di là del riferimento ad Husserl, un vero atteggiamento fenomenologico, cioè una vera sospensione del giudizio di valore singoli eventi è un modo, ed è un cogliere il fatto che la storia comincia quando la verità si carica di tempo sino a frantumarsi, cioè allora il tempo e le immagini segnalano forse questo, e la conoscenza delle immagini segnala forse questo, che non esiste come non esiste uno spazio anisotropo, isotropo, omogeneo, infinito, quello sono di Newton e di Galileo, ma invece esiste uno spazio relativistico che è curvato, che è, esiste spazio particellare all'interno dell'atomo, eccetera, eccetera. Esiste uno spazio con la teoria delle stringhe che ha 15 dimensioni invece delle tre che noi già conosciamo, cioè lo spazio tradizionale, la geometria, l'idea che per Kant era l'unico modello possibile dello spazio va a culo già nel corso dell'Ottocento, quindi si figura poi definitivamente con la teoria della realtà di Einstein. Allora, come l'immagine tradizionale, ingenua, oggettivistica dello spazio come contenitore che Kant critica, ma in cui poi finisce per infilarsi pure lui, perché quando dice che Kant crea le categorie, lo spazio si può conoscere solo con la geometria di Euclide. Allora, come quello spazio lì non c'è più? Forse non c'è più neanche il tempo unitario, lineare, infinitamente divisibile. Quello è il tempo che serve per calcolare i tempi di evoluzione, il tempo dell'orologio, insomma, come ha detto Legoff. Non è il tempo della Chiesa, né il tempo del mercante, non è neanche il tempo di noi che siamo su internet. Il tempo su internet non è un tempo omogeneo, è un tempo frattale. È un tempo in cui si fanno in un momento delle cose, in un altro momento se ne fanno altre, ci si concentra, ci si, come dire, dilata, abbiamo una libertà temporale, con gli ovvi vincoli, non voglio dire che siamo un paese di Spaffuncagna, ma in qualche maniera nella flessibilità temporale è rimasta, anche se una flessibilità dettata da esigenze, eccetera, ma è rimasta in qualche maniera una qualche ombra della originaria rivendicazione della flessibilità che era delle generazioni mie, di quando ero giovane io, degli anni 70 e 70, che non volevano, diciamo, essere schiacciati e ingabbiati da un'organizzazione del lavoro oggettiva e un'organizzazione dello spazio e del tempo oggettivi, ma volevamo flessibilità per noi, per gestire la nostra vita in modo più libero. La flessibilità capitalista ovviamente è tutt'altra cosa e non ci mancherebbe altro, però in qualche maniera in questo tempo frattale di internet o comunque del, diciamo, digitale, forse c'è un po' più di ricordo di questa, e mi pare che questa idea che dice, e comunque continua, e io posso fare dei commenti poi che poi considerate come non è che il passato getti la sua luce sul presente o il presente la sua luce sul passato, ma immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'ora, yes, in una costellazione. Immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulmineamente con l'ora. Se ogni immagine ha il suo tempo specifico di conoscibilità, quando io conosco, quando io vedo, quando io interpreto, quando io capisco, quando io entro in contatto davvero con l'immagine, c'è il momento di produzione dell'immagine e il momento in cui io la vedo e la colloco e riconosco la sua, diciamo, leggibilità, e quindi sono due tempi apparentemente diversi che si incontrano e che si uniscono. Immagine è ciò in cui quel che è stato si unisce fulminamente con l'ora in una costellazione. Questo non c'entra un cazzo con le retoriche della storia magistra vitae che scrisse con Spesso il Cicerone e tutte queste balle sul fatto che non è un cazzo, la storia non insegna nulla. Quindi non è il passato, no, è quello che lui, in cui quello che è stato, ciò che è stato. Una immagine è qualcosa che è stata prodotta indipendentemente da me che la fruisco, da me che la... E quindi ha un altro tempo di produzione rispetto al mio. Ma nel momento in cui io fulmineamente la vedo, la, diciamo, riconosco e mi riconosco sincrono, cercavo il termine e mi riconosco sincrono a quella immagine, in quel momento c'è questa costellazione. In altre parole, wow, immagine è la dialettica nell'immobilità. la dialettica, però nell'immobilità, perché è un istante, è sospeso. No, non dite che è come Heidegger perché mi incazzo. Nell'immobilità è spazio-temporale. In qualche modo sì, in qualche modo sì. Heidegger è davvero... Cioè lui dice le cose giuste. Poiché mentre la relazione del presente con il passato è puramente temporale, quella tra ciò che è stato e l'ora, yes, è dialettica, non di natura temporale ma immaginale. Solo le immagini dialettiche sono immagini autenticamente storiche, cioè non arcaiche. L'immagine letta, vale a dire l'immagine nell'ora della leggibilità, porta in sommo grado l'impronta di questo momento critico e pericoloso che sta alla base di ogni lettura. Ma come si può essere sicuri che ciò che si legge nell'immagine sia effettivamente ciò che è stato preso in quel momento? Non frega niente di questo, ma proprio niente. Nel momento in cui noi leggiamo l'immagine, la ricreiamo in qualche modo. Ma la ricreiamo secondo parametri che sono tutti nostri, lontani anni luce dal... Però, può essere che come il quadro di Klee servì a Benjamin per produrre la sua più famosa immagine, che oggi è un'immagine di Benjamin più che non di Klee, perché è lui che l'ha letta, è lui che le ha... non è un... Appunto, scrivendoci su ha parlato di se stesso, come io leggendo un'opera... Parlo di me stesso che la fruisco, in questo senso. Ma sì, ok, giusto. Ma, cioè, come... Perché non c'è mai non hai bisogno di essere sicuro, perché non c'è nessuna filologia. Cioè, questa moda dell'immagine è tutto meno che filologico, non ci frega niente della filologia. Allora, e poi dovrei parlare di Warburg, non me ne posso parlare adesso, ma non vi parlerò di Warburg, perché accidentaccio è un argomento che non conosco e quindi non posso studiare tutto il documento, poi incontro a voi, il prossimo anno forse ne parlerò, perché comunque c'è gente che ha già collegato bene con l'argomento, perché c'è un modo di leggere le immagini che va visto, che va e che è un test, però non ci accontentiamo di questo, che non è quello che sai tutto il discorso di cui ci sono altre cose da dire, che però sono collegato in questo qua perché voglio parlare del... Però io almeno un altro paio di lezioni su questo tema ci starei a trovare altre cose, ovviamente se voi trovate altre robe portatele perché... Sono le cose che stanno studiando io, se non la considerate, secondo me non la considerate una truffa, siete, o nel senso di dire, ma perché non si racconta solo le cose che state avendo, se non state avendo questa marcia, però siccome è così, è ovvio che... io poi devo scrivere diciamo, dei libri, perché voi non è che siete escusi a studiare da botto, che sul pago, perché adesso faccio un po' parte. Comunque è anche un po' paradossale che prende Klee. Si prende? Un'immagine di Paul Klee. Perché Paul Klee soffriva di una malattia che si chiamava la sclerodermia diffusa e praticamente lui continuava a produrre immagini mentre tutti i muscoli del suo corpo si mobilizzavano nella... La fissità. Una battuta di merda. Povero Klee, cazzo.